Eccoci qui, siamo alla... che puntata siamo ormai? Siamo alla settima puntata del rovescio della medaglia qui su Radio Wombat. Ciao a tutti e come sentite oggi Prog 12 c'ha un'energia allucinante, quindi sarà una puntata spumeggiante, progheggiante. Vado a palla, a sinta aperto. Sweeteggiante, fantastico. E per i più attenti facciamo notare che abbiamo una nuova sigla proprio oggi. Una nuova sigla, messa così proprio estemporanea. Proprio sfornata all'ultimo secondo, si è detto vai, diamo un tocco di classe, di qualcosa di nuovo a questa puntata. E questa che state ascoltando ora è praticamente è confessione, la versione strumentale del Biglietto per l'Inferno che qualche puntata fa, ossia la lettera B, avete avuto modo di ascoltare e di approfondire. Modo e piacere, direi anche. Chiaramente piacere scontato, offriamo solo piacere noi con la nostra musica. A poco prezzo, tra l'altro. A poco prezzo, proprio, è sempre Black Friday every day. Allora, oggi che diciamo? Diamo subito qualche triste notizia di... Purtroppo, perché dopo la scomparsa a marzo di quest'anno di Keith Emerson è scomparso anche Greg Lake. Qualche giorno fa ci ha lasciato anche Greg Lake, quindi Emerson, Lake e Palmer, è rimasto Palmer. Palmer si starà Palmer toccando a quattro mani. Palmer però dice che va a giro sempre a cercare spiccioli in tasca. Dice che quando va a pagare al supermercato ha tre ore di fila per cercare gli spiccioli in tasca, no, non lo so. No. Però insomma facciamo almeno a lui degli auguri. Lunga vita, la proverbiale scaramanzia inglese. Comunque, a questo punto, visto che comunque siamo quasi alla fine, no, del nostro alfabeto, quasi alla fine delle nostre puntate, delle nostre trasmissioni, io propongo una cosa così in diretta che nemmeno Prog 1 ancora ne era a conoscenza. Oh, cosa stai facendo? Dopo la lettera Z, sei preoccupato? Parecchio spaventato, oserei dire. Dopo la lettera Z proporrei due puntate speciali. Oh. Allora, una puntata per gli Area, che vi abbiamo fatto sentire nella prima puntata, anche se solo due o tre pezzi, quindi diciamo che si meritano di più. Sì. E farei una puntata speciale sugli Area, visto che comunque anche la produzione è abbastanza ricca. Ci sono sia ovviamente le LP in studio registrati, ci sono dei concerti registrati che sono usciti, anche diciamo dei piccoli bootleg, e quindi ve lo riproporrei una serata diciamo tutta dedicata agli Area. Fantastico, il secondo la seconda sorpresa sarà la puntata dopo, una puntata dedicata a Emerson, Lake e Palmer. Dai, ma... ci allontaniamo un po' dall'Italia. Senti, è il contratto come siamo? Cioè, nel senso, io ho pattuito tot puntate. Sì, no, ce le pagano tutte come straordinario. No, mi rivolgo ai sindacati subito. Sì, no, quelli ci fanno, diciamo, un contratto a parte, cioè, per le due come due prestazione special straordinaria. Tan. Bene, allora sento già il profumo del cash. Sì. Sento. E poi... E non me li manda, purtroppo non me li manda, no, ci ho provato. Ancora, non fanno salire il pubblico stasera. No, oggi sciopera pure il pubblico, perché sto provando a chiamarli, ma non me li dice. Hanno avuto dei problemi all'ingresso. No be found, e quindi sono irreperibili. Pure quello straccio di pubblico che ci sapeva, ci hanno abbandonato pure loro, benissimo. Vabbè, ci facciamo la soglia. Ok, allora, abbiamo chiuso la settimana scorsa, abbiamo chiuso con la lettera L, vero? Sì, abbiamo chiuso con la lettera L. Con la lettera L, perché vi errata corrige. Sul sito Prog 12, che è un affermato grafico e segue un po' la parte web del nostro fantastico programma, diciamo nelle note del programma, dice: oggi abbiamo approfondito la lettera O, ma che ho sbagliato. Vabbè, ha sbagliato, perché no, era la lettera L, oggi siamo alla lettera M. M di Milano con la lettera N di Napoli. Fantastico. Allora, è proprio con la lettera M vogliamo aprire con cosa, con quale gruppo, Prog 12? Oggi sono preparatissimo. Apriamo con i Maxophone. Con il Maxophone, fantastico. Aspetta che togliamo un attimo tutte le varie... Chi è? La nonna ti stava chiamando. Era la nonna e mi stava chiamando, voleva mandarmi i taralli, però... Ma si chiama Lucia per caso la nonna? Perché oggi è Santa Lucia. Oggi è Santa Lucia. Auguri a tutte le Lucie. Si ricorda solo perché dice che sia il giorno più corto dell'anno, con meno luce. In effetti io sono già stanco, andrei già a dormire. Meno luce, Lucia è un po' un ossimoro. Ah, diciamo. Beh, ossimoro, pure oggi, vuoi stupirmi pure oggi? Una puntata. Ormai, una puntata. Va bene. E apriamo, e oggi proprio con la lettera M, come appena detto Prog 11 e un quarto, apriamo con il Maxophone, vero? Sì, verissimo. Con te conferma, no? Li presento io. Conferma, non mi pare, ci siamo messi d'accordo prima che li aprivo io, certo. Non che mi fai i gesti, entri in panico totale. Chi li però è tre volte che si dice che ci sono i Maxophone. Sono i Maxophone. Chi so, Pink Floyd. Vabbè. Presenta mi screditi, perché mi screditi i miei gruppi? Non ho capito. No, non solo perché la tracklist oggi non però l'hai fatta a te. Maledetto. Cioè, è inutile continuare a ripetere Maxophone, Maxophone, Maxophone. Ok. Allora, il gruppo che abbiamo appena parlato finora sono milanesi, si sono formati nel 73 e praticamente loro, come tanti altri gruppi, ripetiamo tutta la pappardella, sono usciti con un solo album omonimo. Il gruppo si sciolse nel 77. L'album omonimo qual è? Maxophone. Maxophone, diciamolo per la sedicesima volta. Mentre, diciamo, una nota più o meno di merito, via, anche se poi in effetti possiamo dire che il sassofonista e flautista, tale Leonardo Schiavone, poi è passato per un breve periodo a collaborare con gli Stormy Six. Però mi sa che gli Stormy Six non passeremo tanto, non passeremo nulla. Li ricordiamo solo, Stormy Six. Sì. Come però tocca fare ora il terzo punto, approfondimento Stormy Six, no? No, Stalingrado c'è già qualcuno in ogni città, no. Ci basta solo averla conosciuta a livello di cultura musicale generale. Conosciuta. Va bene, va bene. E allora, quindi dell'album omonimo vogliamo mandarvi Fase. Fase, buon ascolto, enjoy. We'll be right back. Benissimo, allora riapriamo e ricominciamo con le note di sottofondo dei Maxophone con fase. E il prossimo gruppo sono i Metamorfosi, che lascio presentare a Prog 12 e mezzo. Eccoci qua con i Metamorfosi. Metamorfosi, gruppo romano fondato dal cantante Jimmy Spitalieri. E loro hanno prodotto solo due album, il primo diciamo non ancora molto, molto maturo. E fu il Sesto Giorno, nel 72. Invece un grande disco del prog italiano, uno dei migliori dischi secondo la critica del prog italiano, è Inferno. Inferno è composto da due lunghissime suite, sul primo e il secondo lato dell'LP ovviamente. E una cosa particolare di questo gruppo è che nel 1969 Jimmy Spitalieri si unisce a dei musicisti che si chiamavano Frammenti, che era un gruppo specializzato nelle messe beat. Ah, sì, so se sapete cosa sono le messe beat, erano, sì, comunque andavano a quel periodo in un ambiente ovviamente cattolico di parrocchia, però molto spesso davano la possibilità ai gruppi, soprattutto non nei grandi centri, ma nei centri di provincia, di approfittare diciamo degli spazi della parrocchia per suonare. E la domenica venivano fatti suonare in chiesa, facendo non solamente pezzi diciamo da chiesa, ma anche pezzi strumentali, dei brani scelti da loro a vario tema. Diciamo, tipo diciamo, no? una sorta di gospel de noartri, diciamo. Sì, una sorta, sì, di gospel nostrano. Sì, sì, una roba più... Che poi, no. Mi guardi no, male, no, no. Ormai tu mi fai vivere, sì, nel, sì, terrore per una cosa, sì, sì, una cosa che uno ovviamente apprezza la musica, apprezza le facoltà canore di questi elementi nel gospel, e poi ovviamente i testi fanno tutti riferimenti alla luce divina, al Signore, sì, a tutti i Cristi e le Madonne. Scusa, Prog 11, ma cioè, io e te ci si vede anche durante la settimana, perché queste storie non me le dici mai? Arriva il martedì, vomiti tutto. Ma cioè, ti lascio così trepitante tutta la settimana, cioè, e poi... Non è che ti fai l'ansiolitici, quindi per calmartici fino a martedì, devo dire troppe news? No, amici di vecchi, ci gioco un po', diciamo. Te la giochi, perché ci vediamo in settimana, proprio l'omertà in assoluto. Arriva il martedì e spari tu. Te le lascio tutte per il martedì. Comunque, dalle messe beat, il primo disco si chiama Inferno. E da Inferno vi faremo... Inferno, sì. Sì, controlliamo, confermato, ma... È il secondo disco, sì, il secondo disco. Sì, sì, ho detto, il primo disco non ve lo facciamo sentire perché ancora per noi non era troppo maturo. Infatti. Lo lasciamo maturare ancora un po'. Facciamo barricata. Ah, sì. Il primo disco l'ho proposto in versione barricata. Barricata, il prossimo anno. Invece il secondo album, che è uno dei migliori dischi del prog italiano, si chiama Inferno. Quindi dalla messa beat all'inferno. E io partirei con farvi ascoltare l'introduzione, che appunto si chiama Introduzione senza oscura. Sulle rovine di antiche città crescono fiori senza colore, alberi tristi tendono al cielo rami corrosi. silenziosi dal tempo. Questi erano i Metamorfosi con dal disco Inferno, con Introduzione senza Oscura. Un grande gruppo, un grande disco con una parte molto interessante, sia la connivenza tra le tastiere e questa voce imponente e maestosa del nostro Jimmy Spitalieri, no? Sì, concordo. Ma quasi una voce lirica. Concordo. Comunque, andiamo avanti con questa lunga suite tratta da Inferno. Vi faremo ascoltare tre pezzi. Siamo tutti e tre? Sì, io questi li manderei. Vai, ci sto. Il primo è Caronte. Poi seguiamo con Spacciatore di droga. E finiamo con Barra Terremoto, barra, non si è capito bene, insomma, sarà una serie di... Vabbè, sono tutti vari movimenti, come abbiamo detto mille volte, un po'. Queste suite sono formate da vari movimenti. Generalizziamo con Spacciatore di droga. Via. Spacciatore di droga. E poi manderemo anche Lucifero, tra parentesi, Politicanti. Quindi ci sta anche quel tocco di militant, diciamo così. Sì, di critica, di critica alla politica. Sentiremo partitica. Cosa ci raccontano, sì. Caronte, demonio, occhi di fuoco nel buio, e non sperate mai di rivedere il cielo, anime nere al fuoco eterno brucerete. Cercando di te larve umane di un mondo privo d'ogni realtà, quante volte han sofferto per la tua avidità, ma non è col denaro che ora tu Ok, avete appena ascoltato, state finendo ad ascoltare questa l'ennesima suite autoprodotta dei Metamorfosi. È arrivato il momento tanto atteso della rubrica settimanale, no? L'agenda della settimana. Allora andiamo subito, lasciamo un po' di sottofondo, che dici? Sì, lasciamo un po' di sottofondo, ci sta sempre bene. Ah, oddio, è finito il pezzo, quindi no. Ci stava malissimo, effettivamente non ci stava bene. Faceva cagare. Sì, no. Cantami te allora, Sì. Fammi il sottofondo. Cantami, o diva. Bellissimo il riferimento. Allora, senti, dicevamo, l'agenda della settimana dei... Vogliamo cominciare quando è, vediamo, perché ve li sto leggendo in diretta, cioè non è che io sono non è che vado a giro a promuovere serate, non faccio il presentatore. Sicché, prima serata, in ordine cronologico, troviamo venerdì 16 dicembre il collettivo Nuovi Rumori al CSA Next Emerson con tre gruppi, i Frana, i Gordo e i Cani dei Portici, di cui leggevo il secondo gruppo, i Gordo, prog 12 e mezzo, fanno heavy prog and roll, o bass più drums più piano, quindi fanno una sorta di, cioè sono la descrizione, la descrizione loro è un mix tra Carcass e Jethro Tull. Quindi qualcosa di interessante, qualcosa anche un po' di progheggiante. E tra l'altro, scusami, Prog 12 hanno da poco registrato un concept album. Allora dovete venire tutti. Che noi quando diciamo concept album ci emozioniamo, bellissimo. Ancora non abbiamo capito che significa, però proprio ci piace la parola. Scriveteci, proprio. Dove ci possono scrivere i nostri ascoltatori? Ma ci potete scrivere su postawombat@insiberia.net. Benissimo, poi andiamo ancora avanti con gli altri eventi che ci saranno in questi giorni, in questa settimana a Firenze. Il prossimo evento è sempre venerdì 16 dicembre, c'è una serata reggae al CPA, con chi c'è? Leggiamo un po', e guardiamo direttamente il manifesto. Ci sono Treble, a.k.a. Lu Professori, poi con i Dangerous Band e Super G, quindi i ragazzi di Maggio Reggae che organizzano la serata con lui. E poi andiamo avanti ancora con la programmazione. Cosa presentiamo ancora? E dov'è? Non c'è più nulla da presentare? No, come no? C'è sabato 17, la prima serata di finanziamento, prima serata benefit per Wombat Radio o Radio Wombat, che cade con la serata, con l'appuntamento di questa, chiamasi Christmas Conference, ossia una serata con tre sound system sempre al CSA Next Emerson, e potrete ascoltare questi tre sound autocostruiti di cui Romola Sound System in collaborazione con i Mirut Sound System, Jazz Station e Rama Bass Sound System, chiaramente. E questo, come vi ripetiamo, sabato 17 dicembre al CSA Next Emerson, oltre alla serata benefit rifinanziamento per Radio Wombat. Quindi insomma sarà anche, diciamo, una data importante, ecco, dove dovete sborsare i quattrini per finanziare Radio Wombat. E potrete vedere in diretta proprio le facce, quelle grandi facce, dei DJ di Radio Wombat. È vero. E lì capirete tante cose. Non lo so se abbiamo fatto bene a dire che ci sta che vedete le facce dei DJ di Radio Wombat. Sì, ma non è che ci scriviamo in fronte, io sono Prog 2, te Prog 3 e gli altri. Ah no. Saremo lì, però in incognita. In incognito, dai, via. No. Sì, è che va. Tipo, poi, se vedete, ma poi che cazzo ci cerca? Se vedete due strani soggetti, uno vestito da uomo tigre e uno da uomo ragno, sono prog 1 e prog 17, però sempre cercando di passare inosservati. Andiamo, poi diamo dopo altri appuntamenti. Sì, ora torniamo. Per ora facciamo così, andiamo avanti con la musica e siamo arrivati. Il prossimo gruppo che vi presentiamo, chi sono? Prog 10. Il prossimo gruppo sono uno degli altri gruppi famosi che hanno avuto una grande fama, una grande fortuna nel mondo non solo del prog, ma anche del rock italiano in generale, e questi sono i New Trolls. I New Trolls sono, diciamo, un gruppo che ha prodotto molto nella propria carriera. Sì. Sono andati, diciamo, hanno variato tra i generi più disparati, all'inizio con il beat, poi un po' di psichedelia, progressive, un po' di sonorità hard rock, per poi, lo dico, scadere nel pop melodico, infatti, posso dire, questo era... Diciamolo, dai, via. Però questo non toglie. No, non sminuisce tutto il lavoro che hanno fatto. Diciamo, in quegli anni. Noi diciamo come noi prendiamo il meglio, il meglio secondo noi, sì, chiaramente di quello che sono stati. Il boccone stati del prete dei New Trolls. È vero. Di quello che sono stati gli anni migliori dei New Trolls. Allora, la loro storia comincia a Genova. Alla metà degli anni 60, quando questi musicisti decidono di formare un gruppo nato dalle ceneri del vecchio gruppo di uno dei componenti che si chiamavano i Trolls. Quindi ovviamente New Trolls sono la conclusione, diciamo, di questo percorso. Sì, sì. E addirittura hanno, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, hanno aperto alcuni concerti dei Rolling Stones in Italia. E dopo aver prodotto una serie di 45 giri, e hanno prodotto il loro primo album, che si chiama Senza Orario e Senza Bandiera, che è uscito nel 1968, con i testi scritti, questo l'ho scoperto veramente da poco, sì, da Fabrizio De André. Pensa un po'. Un bell'album che comunque ancora seguiva un po' quelli che erano, diciamo, i modi, sì, e le sonorità della musica beat. Il secondo album, intitolato ovviamente New Trolls, è del 1970 e è praticamente una raccolta di brani tratti dai loro singoli, dai loro 45 giri che erano usciti in questo tempo. E diciamo, però, il primo grande album che ci interessa, che comunque è rimasto anche nella storia del rock, del prog italiano, è un'opera rock sinfonica che si chiama Concerto Grosso per i New Trolls, con le musiche composte e arrangiate dal compositore Luis Bacalov. Enriquez Bacalov, che, come avevamo detto, era in quegli anni era molto prolifico e aveva scritto e diretto anche molte colonne sonore di film italiani di quegli anni. Scoperto era argentino, vero? Sì. Era argentino, sì. Che c'è, boludo? Argentina, che loco! Non dovevi fare gli auguri? Devo fare gli auguri, a proposito di Santa Lucia, devo fare gli auguri a Luciano, che è mio babbo, che è nato appunto il 13 dicembre per Santa Lucia. Si chiama Luciano e non Lucio, non so per quale motivo, però ecco, è a tema. Lucia, Luciana, Luciano, Lucio, sono tutti era nati. Era una piccola parentesi. Sì, una parentesi, di parentesi. Questa ci voleva. Bene, io a questo punto... Da cosa vuoi cominciare? Io partirei Non lo so, partirei, sì. Partiamo con, perché quest'album, Concerto Grosso per i New Trolls, è un album particolare, perché te, come dicevi giustamente prima, dovrebbe essere, dovrebbe, mi avvicino al microfono perché se no parlo si sente male, e dovrebbe essere, come dicevi te, un concept album, sì, vero? Sì, un concept album o un'opera sinfonica rock. E infatti, perché praticamente sono, sono una serie di mini track, per modo di dire, anche perché poi a livello di tempo sono comunque lunghette, sì, voglio sì. dire. Infatti, però è appunto, essendo un concept album, hanno tutto un filo che li lega, un filo sì, conduttore. Infatti anche i titoli sono divisi come nella musica classica, appunto, per movimenti. Primo tempo, secondo tempo, terzo tempo. E quarto tempo. Si può andare avanti fino alla fine. Qui non possiamo andare avanti. Il rovescio della medaglia! Tutti la vogliono, nessuno la piglia! Scusate, no, ecco, vedi, ora, cioè, dallo sciopero coatto e continuato. Oltranza, è arrivato oltranza, finalmente il pubblico. Finalmente si è fatto vivo il pubblico. E hanno sfondato le transenne e sono arrivati, anzi, vedendole sono arrivate. Sono arrivate, potreste anche salutare la radio. Salutiamo il nostro caloroso pubblico in diretta su Radio Wombat, il rovescio della medaglia. No, è andata così, via. Eravamo carichi di... Non sapevamo che il pubblico si rompeva le palle, non siamo venuti a spezzarvi la noia tremenda. Questo stanno muovendo delle critiche, per cui il nostro programma è un po' noioso. Si mette anche la musica, non si chiacchiera solo. Se ci chiudete, anzi, gentilmente la porta. Ma scusate, ma eravamo venuti qui per farvi un po' di feste, ma vi state qui divertendo? Grazie del calore. Sì, cioè, allora, e dell'affetto. Ci vediamo dopo in balera. Cioè, praticamente Prog 12 che è talmente imbarazzato che è diventato rosso come un abanero, sta pigliando fuoco. Come un abanero chocolate. Scusate, ma noi emiliani siamo calorosi, lo sapete. Ehi, fuori, oi, ora biccazzo, aiù. È bastato dire due o tre parole chiave per poter... Dicevamo, allora... Eravamo rimasti, manco io più mi ricordo un dose. Ah no, vabbè, io, concerto grosso per i New Trolls. Concerto grosso, io intanto vi farei sentire questa selezione fatta da Prog 1 e Prog 17 e un quarto. E mandiamo primo tempo allegro. Bene, bene, bene, bene. Ok, era giusto così un pezzo rappresentativo di questo. Un assaggio. Tanto abbiamo stati mezz'ora a parlare di questo album per poi dare giusto un assaggio. Vabbè, è come nei migliori ristoranti, quelli d'alta classe, che vai là, ti aspetti magari di mangiare chissà cosa e poi arriva un piatto povero. No, non era un piatto povero, era solo un antipasto un po'. Però... antipasto per buon gustai, sì, via, sì. Per buon gustai. Vuoi andare avanti con la biografia dei New Trolls? Io andrei avanti, in questo momento mi trovi un po' impreparato. Trovo un po' impreparato. Però, diciamo. Comunque, questo era Concerto Grosso per i New Trolls del 1971 e abbiamo mandato il primo movimento, mentre... E ora vi faremo ascoltare dall'album successivo, se non sbaglio, meno, l'album Ut. Che ha un suono più duro, diciamo a tratti quasi vicino all'hard rock, per questo forse mi è piaciuto, perché l'hard rock a me piace un po', infatti forse faremo anche qualche programma sull'hard rock, che ne pensi? Diamo, ma no. Sì, qualcosa. Ci a pensiamo, parte, cioè, un po' di hard rock italiano ve l'abbiamo messo nel mezzo. Ce n'era diversi gruppi, diciamo, avevano parecchie sonorità hard rock. Però allora, andiamo a presentare quello che abbiamo scelto noi di quest'album, che è Dodicesima Strada, e l'altro pezzo. Che mixeremo, perché Dodicesima Strada è una sorta di intro, credo, visto che dura proprio pochissimo. Sì, penso. Ma il vero pezzone dell'album che abbiamo scelto è C'è Troppa Guerra. Loro sono i New Trolls e questo è l'album Ut del 1972. Una cantina. Thank you. allora avete ascoltato dall'album Hoot, dodicesima strada e c'è troppa guerra, e avete sentito quest'ultimo pezzo con un'accentuata vena hard rock che non ci dispiace. Dopo questo album che per molti è un bellissimo album, quindi diciamo la critica rispose positivamente, no, a quest'album, sì. Diciamo talmente bello che il gruppo si è diviso. Si è sciolto con vari problemi di diritti per il nome, sì. Ci sono state una serie di discussioni tra membri del gruppo per tenere appunto il nome New Trolls. Addirittura arrivati anche a sono arrivata la diatriba, era così accesa che arrivarono proprio a un livello legale, sicché con tanto di avvocati e trovarono questa, almeno inizialmente, questa soluzione che appunto introduce i nostri prossimi brani in scaletta. Trovarono questo escamotage e nell'album successivo, che si chiamava NT Atomic System, che è uscito nel 1973, e NT stava per New Trolls, e questa, diciamo, gli scissionisti erano questi NT Atomic System. Scusate, c'ho il fiatone, ma sono uscito un attimo perché mi scappava uno spritz. Tutto a po'. Ho fatto questo spritz di corsa, ancora ho un po' di fiatone. Ce n'avrà per due giorni. Comunque. Questo è il primo album degli NT Atomic System del 1973, un grande album con una rilevanza degli strumenti a fiato e delle tastiere, e con influenze molto più, diciamo, del mondo del jazz rock, vero Proguna? Affermativo. E di questo album, di questa nuova formazione, nuovo album, vi andiamo a presentare due brani, se non sbaglio. Due brani, certo, presentiamo la nuova predica di padre O'Brien, perché se c'era scritto O'Brien ci sarebbe Brian, stata la invece, no, infatti. Padre O'Brien, lo leggiamo così come è scritto, e l'altro è Una notte sul Monte Calvo, che è una bonus track, che è un singolo del 73. È un singolo, questa formazione realizzò questo singolo, che è un rifacimento di Una notte sul Monte Calvo di Mussorgsky. Oh, sai chi è Mussorgsky? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, parlo solo davanti ai miei avvocati. No, non facciamo non è che nomi. Si finisce come New Trolls, no. E te, Prog 1 e Prog 12. Non sputtaniamo nessuno, Mussorgsky lasciamolo fare. Se ne faccio causa! No, che poi, ora non vorrei dire una cazzata, ma anche Emerson, Lake e Palmer hanno tratto qualcosa da Mussorgsky. Ci sta, non abbiamo fatto in tempo a chiederglielo. Anche qua, vai, che la dignità è cascata in terra, vai. No, è umor nero. Umor nero. Noir. Che vivi ridendo, senza curarti del mondo. Uomo, ricorda che polvere un giorno sarai. passi le ore in ginocchio. Forse la morte ti sembra diversa, però come polvere certo anche tu finirai. Anche un solo momento, forse non sai che più tardi lo rimpiangerai. Uomo che vivi aspettando, la mano che asciughi il tuo pianto, alzati e cerca il coraggio che adesso non hai. La domenica compri con una moneta il domani, forse non sai che nel mondo anche oggi vittime nuove ogni giorno la fame farà. Allora chiudiamo il nostro, la nostra piccola parentesi New Trolls, piccola media, una media parentesi. Una parentesi quadra. Anche parentesi. Né tonda né graffa, era una parentesi quadra. Dei New Trolls, che poi te volevi rettificare, vero? Sì, però dare delle precisazioni che comunque dal compositore russo Mussorgsky anche Emerson, Lake e Palmer hanno tratto un album che si chiama Pictures at an Exhibition, quadri ad un'esposizione, di Mussorgsky in versione Emerson, Lake e Palmer. Quindi non era così a caso la domanda tra l'ottese che ti fa, era tutto pre- no, cioè, ci tocca... c'era qualcosa, una mezza verità c'è sempre in quello che diciamo. Cioè, ci tocca ammettere che era tutto preparato, che non era una verità. Non ci crede nessuno, ma lo possiamo dire lo stesso. Siamo talmente eleganti che possiamo giocarcela come Gerrish Kamal. Va bene lo stesso, ce la accogliamo. Bene, bene, bene. Allora, sentite un po' il vocio di sottofondo che accompagna questa radio. E trovo fantastico le chiacchiere delle comari, del sì. Paesino, che non ci danno assolutamente retta. No, niente. Scusate, volete fare un applauso per il rovescio della medaglia? Perché diciamolo, questa è la radio Voice of the People, no? Questa non è... Non è una radio per gli individualisti che vengono qua, si rinchiudono in studio col microfono e la strumentazione. Questa, fatevi sentire! Sono un po' timide, perché abbiamo solo un pubblico femminile stasera. Voice of the Women, più che Voice of the People, il famoso sound system giamaicano, vabbè. Allora, il prossimo gruppo che presentiamo sono i Nuova Idea, e allora... Nasceranno dalle ceneri degli Idea? Sì. Non lo so, non li conosco sinceramente, ma se c'era una nuova idea, c'era una vecchia idea, o un'idea e basta. Comincio a trovare un'idea per il post, per quando finisci di fare le trasmissioni. Comincia a buttare giù delle idee di quello che sarà di te dopo, alla fine di questi. Abbiamo occupato questa fascia oraria del martedì, che ora ce la dobbiamo tenere, quindi quando finirà tutto il prog mondiale ci dobbiamo inventare qualcos'altro. Quindi dovrei trovare una nuova idea, che è fantastico. O un lavoro vero. Il nuovo gruppo Proggy Lavoro Vero, che saremo io e Proggy 17, poliedrico, polistrumentista, e chi più ne ha più ne metta. E dicevamo, allora, vabbè, il prossimo gruppo sono di Genova, che hanno in comune, chi era di Genova? I New Trolls, che abbiamo appena presentato. Ma anche i Garibaldi. E anche i Garibaldi. Però non c'entravano un cazzo l'uno con l'altro. Invece no. con i New Trolls c'è stato un po' un intreccio sì, infatti sì. Di alcuni componenti si vede che erano i Garibaldi erano di Ponente e i New Trolls e di Nuova Levante. Idea di Levante o di San Pier d'Arena, quindi sai, magari c'era, sai, quella le rivalità tra i vari quartieri, le varie zone, e poi si trovavano in mezzo e si scambiavano i musicisti come le figurine. Tu mi dai un basso, io ti do un musicista, quindi era un po' uno scambio. Cielo. Ovviamente il chitarrista ce l'avevano tutti in quegli anni. Sì, sì. Mancavano i bassisti, i tastieristi. Abbondavano. E che li facevano? Li facevano scaricare ai concerti, ai chitarristi? Li facevano la chitarra? Non lo so, qualcosa, perché ha visto il chitarrista, si sa che... chitarra suonavano tutti. Li facevano fare. Facevano scaricare l'impianto quando... Sì, oppure portavano... li facevano scaricare il mega impianto dei cosi, dei... del rovescio della medaglia. Del rovescio della medaglia. Ci voleva una settimana per scaricare tutto l'impianto. Ma non è che l'ha scaricato pure a chi poi gliel'ha fottuto l'impianto? Secondo me c'era qualche chitarrista disoccupato. Chitarrista, diceva. Che gli ha fottuto l'impianto. Arrotondiamo, vai. Yammo bella, accattato. Si è portato via l'Hammond di 18 piani. Ma perché hai fatto questo accento del sud quando si parlava di... In effetti, ho sbagliato. Fallo in versione milanese. Dimmi qualche altro. Dimmi qualche. Uè, Perla. Ci fottiamo tutto. Stasera la porto sui navigli. Fottiamo sull'impianto. Uè, Perla, porto sui navigli a vendere lemon di 18 piani, figa. Fantastico. Bene, allora andiamo avanti con i Nuova Idea. E dicevamo che erano genovesi. E praticamente i Nuova Idea nella loro carriera hanno tirato fuori, hanno sfornato, diciamo, detto molto grezzamente, tre album dal 71 al 73, andando in ordine sono In the Beginning del 71, nel 72 Mr. E. Jones del 72 e Clowns del 73. E quello che vi proponiamo ora è parte quindi del Mr. E. Jones del secondo album del 1972, e da questo album abbiamo estratto Mr. E. Jones e Illusione da poco. Loro sono in Nuova Idea. Thank you. E questo era Illusione da poco di Nuova Idea. E nell'occasione vi rilancio un po' l'agenda della settimana e vi segnalo sabato 17 dicembre al cantiere sociale Camilo Cienfuegos una serata per gli antifascisti sotto processo nel processone fiorentino. Dalle 20:30 cena sociale per sostenere le spese legali e dalle 22 concerti hardcore con I Placcaggio, gli Urban Viet Cong, i DeLorean e a seguire DJ Set Trash con i DDT. Tutto questo sabato 17 dicembre al cantiere sociale Camilo Cienfuegos. Allora, andiamo avanti, no? Chiudiamo anche. Bello parlare con ci riempiono, poi ci riempiono la voce, ci riempiono la stanza, ci riempiono le orecchie. Sì, riempie un po' tutto. E andiamo avanti con. Non ci abbiamo da presentare altri appuntamenti. No, vi ricordo solo contemporanea, sabato 17 dicembre al CSA Next Emerson, la prima serata benefit per Radio Wombat. Dalle 22. Dalle 22 fino alle 22. Fino a tarda notte potrete sostenere Radio Wombat. Oppure Radio Wombatti, perché io lancerei pure questo appello per sostenere i confratelli d'oltreoceano, anche perché oggi è appena tornato il Paciucco. Il Paciucco è dal suo lungo viaggio è tornato il Paciucco, che vi saluta, gesticola con la zampetta. E potremo anche dargli spazio nelle prossime puntate. Ora, visto che è tornato dal suo lungo viaggio, mi sa che qualcosa da raccontarci ce l'avrà. Di sicuro. Perché ogni volta che si fa un viaggio. E avrà anche da farci sentire dei nuovi pezzi, dei nuovi brani, una nuova sonorità dall'altra parte del mondo. È vero. Andiamo avanti allora con I Nuova Idea, che il prossimo album è Clowns del 73 e abbiamo scelto da questo album abbiamo scelto Clessidra e Un'isola che mixeremo anche queste, che dici Prog 12? Sì, in maniera molto professionale e molto anche sentita. Facciamo vero. Questo mix proprio di cuore. We'll be right back. castello sceglie per sé, vesti morbide, valletti, vecchio re. Thank you. bene, grazie, grazie, grazie. Grazie per il sostegno, finalmente è arrivato il pubblico. Siamo riusciti a ricomprarci il nostro pubblico. Ce lo siamo riconquistato, dai. Ci è costato caro, però ce lo siamo presi. E allora, da bravi uomini d'onore, manteniamo le nostre promesse. Che non abbiamo mai fatto, tra l'altro, però... Vabbè, però diciamo fa figo dirlo, no? Vi lasciamo con un pezzo dei New Trolls, con... Lo so. Partito, c'ho sempre io questo, sei troppo simpatico. Spirito, sì, sì. Sono proprio un buon tempone. Sì, sì, dovresti sbagliato, dovevi fare il comico. Forse sì. Qualsiasi cosa lì ci fai scoppiare a ridere. Sì, sì. Quindi cosa avevi promesso? Via? Quindi vi lasciamo con un altro movimento di concerto grosso per i New Trolls, appunto, dei New Trolls, e vi facciamo ascoltare il quarto tempo, che si chiama Shadows. Diciamo la verità, via, che io in scaletta non l'avevo messo, e Pro Gundici giustamente mi ha detto, guarda, ma quel pezzo non l'hai messo. Ma poi un pezzo dedicato a Jimi Hendrix, infatti il sottotitolo ma non è per Jimi Hendrix. Ma non è che è morto pure Jimi Hendrix, no? Ma sai che in questo 2016 bisogna stare attenti. Se ne vanno tutti, se ne vanno. Sì. Chi rimarrà a suonare? Vabbè. Non lo so, forse... Ciao a tutti, salutiamo tutti. Maybe to dream. Salutiamo tutti. Salutiamo tutti, salutiamo il nostro caloroso pubblico che ci sta seguendo, l'abbiamo buttati fuori dallo studio perché... Però salutiamo anche sia il pubblico fuori che il pubblico che è dentro allo studio. Radio Womba. Oggi non abbiamo detto niente delle nostre info generali, il sito, diciamolo ora, via, a fine puntata. Diciamo ora, oppure incominciamo, mandiamo questo pezzo che parte così e poi dopo mandiamo tutti, saluti, i nostri siti, i nostri contatti. E con il pezzo sotto? Sfumiamo. Sì, vabbè, però certo queste cose andrebbero preparate a casa, non è che tutte le volte si può chiedere, ma non si fa così... Vabbè, facciamo cosa è il bello del live, a noi ci piace il bello del live, noi siamo proprio così, siamo live, siamo via, siamo live e pane e salame anche, ricordo sempre. Oggi era kebab, international kebab. Quindi vi ricordo il nostro sito wombat.onoblogs.org, twitter.com/radiowombatfi di Firenze, facebook.com/radio-wombat-firenze, il nostro indirizzo di posta elettronica postawombat@insiberia.net. Vi lasciamo. Lo sapevi che pezzo cominciava così e te potevi permetterti il lusso di dire tutte queste... Ho studiato, te l'ho detto che ero preparato. Vi lasciamo, allora ovviamente vi ricordo l'appuntamento di domani con l'Accademia della Brusca e... No, ho sbagliato tutto, vedi? Va bene, vi lasciamo. E fatto il passo più lungo della gamba. Domani Slick Chick e 8 Hertz, giovedì l'Accademia della Brusca. Mentre e noi ci troviamo la prossima settimana, martedì prossimo, sempre alle 7 di... Il rovescio della medaglia su Radio Wombat. Ciao. Ciao, ciao. Wishing you.